Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. In regia abbiamo Giorgio Mattè, in redazione Laura Vanossi. Allora siamo pronti e possiamo andare ai titoli del sommario. Dalla dialisi al trapianto, un percorso sempre possibile? Muoviti, te lo prescrive il medico. Spinoso ma salutare, vi presentiamo il carciofo. Oggi torniamo a parlare di reni, in particolare di quando è necessario sostituirli con un trapianto. I reni infatti si ammalano, in alcuni casi perdono lentamente ma progressivamente e inesorabilmente la loro funzione. Allora a questo punto è necessario trovare un rimedio, una soluzione, il caso di dire salvavita, perché se i reni smettono di funzionare si smette anche di vivere. Allora oggi vorremmo proprio compiere insieme a voi un percorso dalla malattia renale al trapianto e quindi se soffrite di una malattia renale, se siete in dialisi, se siete in lista d'attesa per un trapianto, se vivete grazie ad un trapianto, chiamateci 800 24 0024. Oggi cercheremo proprio di affrontare a 360 gradi questo tema. I messaggi al 349 238 6666. Ho l'onore di avere in linea con noi il professor Remuzzi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo e direttore del Dipartimento Trapianti agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Professore, abbiamo già dedicato delle intere puntate alle malattie renali, ma facciamo una specie di riepilogo, di ripassino. Quali sono le malattie e le condizioni che mettono i nostri reni KO? Sempre più spesso il diabete e la pressione alta. Certe malattie ereditarie, malattie nelle quali il rene forma delle cisti che aumentano con il tempo e che comprimono la parte funzionale del rene al punto di aver bisogno di sostituirlo, delle infezioni, le malattie del filtro del glomerulo. Abbiamo tanti piccoli filtri, si chiamano glomeruli, ne abbiamo 1 milione per ogni rene, possono essere danneggiati da malattie del sistema immune, i dottori le chiamano glomerulonefriti, i calcoli, perché poi quando si formano tanti calcoli ci possono essere infezioni, e poi malattie più rare, la tubercolosi, tante sono le malattie che possono mettere in difficoltà i nostri reni. La soluzione quando un rene non funziona più sarebbe un trapianto, ma nell'attesa di un organo si ricorre alla dialisi, professor Remuzzi. Sì, per fortuna il rene è stato l'unico organo che i dottori sono stati capaci di sostituire bene. Sì. Noi possiamo vivere senza un organo così importante come il rene e avere una vita ragionevole con la dialisi. Dobbiamo fare un trattamento che lava il sangue. Quando il rene non funziona si accumulano intanto l'acqua, perché non tutte le malattie del rene si accompagnano a perdita della capacità di urinare, ma molte volte succede. E allora tutto quello che noi beviamo rimane nel nostro organismo e soffocheremmo d'acqua se non ci fosse questa macchina che rimuove l'acqua. L'acqua è la cosa più tossica, la cosa più difficile da eliminare. E poi tutte le sostanze tossiche che si accumulano dal metabolismo del nostro organismo, noi introduciamo con l'alimentazione tante sostanze che poi devono essere in parte assimilate ma in parte eliminate, e il rene fa questo lavoro. Il rene fa, l'abbiamo parlato tante volte, questo lavoro tra l'altro meraviglioso di regolare la composizione del liquido fuori dalle cellule, quel liquido che bagna le nostre cellule, che deve avere una concentrazione molto precisa di sodio, di potassio. Tutto questo lo fa la dialisi, ma la dialisi lo fa 4 ore per 3 volte alla settimana. Infatti il nostro rene lo fa 24 ore, giorno e notte, tutti i giorni. Quindi vivere in dialisi vuol dire certamente poter sopravvivere, e quindi è una cosa meravigliosa dal punto di vista della vita che queste macchine danno a questi ammalati, che sennò morirebbero. Ma anche organizzare. Ma con una grave insufficienza, certo, renale, perché la macchina sostituisce il 10-15% della funzione del rene. È sufficiente per vivere, ma certamente non è una vita che si può paragonare a una vita normale. Professore, infatti la dialisi dovrebbe essere un trattamento temporaneo, dovrebbe durare giusto il tempo necessario per ricevere un rene nuovo, ma per molti la dialisi diventa vita. Certo, qualcuno il trapianto non lo può fare perché ci sono delle controindicazioni al trapianto, l'aver avuto un tumore per esempio, perché poi si dovrebbe fare il farmaco antirigetto che può riattivare la malattia, sì, che magari è stata curata bene con dei farmaci. E l'avere per esempio arterie e vene molto compromesse da deposizione di calcio è un'altra controindicazione, perché i chirurghi devono attaccare il rene a un'arteria, a una vena. L'avere delle malattie della vescica, degli ureteri, può essere una controindicazione, perché i chirurghi devono attaccare l'uretere, quel tubicino che porta l'urina verso la vescica per poi portarla all'esterno. Se ci sono delle gravi malformazioni della vescica o delle malattie infettive gravi, questo può essere una controindicazione. Quindi ci sono delle condizioni in cui non è possibile. Però, molti lo potrebbero fare il trapianto, e anche molti di quelli che lo possono fare purtroppo non lo fanno, perché il trapianto non arriva mai. E di questo parleremo, cerchiamo di capire come si potrebbero ridurre le liste d'attesa. Ci raggiungerà anche per raccontarci la sua esperienza, è stato trapiantato l'onorevole Fabio Mussi, già ministro dell'università, ci racconterà la sua storia. Naturalmente potete approfittare del professor Remuzzi, soprattutto se siete in dialisi, volete avere delle notizie in più, se, come vi ho anticipato, siete stati trapiantati e quindi volete raccontarci anche come cambia la vita, come cambia in meglio, chiamateci 824-0024, i messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. I medici lo ripetono da anni, l'elisir di lunga vita, il farmaco più efficace, quello capace di svolgere un'azione sia preventiva che terapeutica senza effetti collaterali, ha un solo nome: movimento regolare e costante. Adesso dalle parole e dalle ricerche, perché i benefici di questa attività fisica sono ampiamente documentati da fiorfiori di studi, si passa ai fatti, anzi ad un progetto in cui l'attività fisica viene prescritta come una vera e propria prestazione sanitaria. Succede a Ferrara. Ne parliamo con il direttore dell'azienda USL di Ferrara, dottor Fosco Foglietta. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Dottor Foglietta, questa è davvero una bella idea, perché è semplice, proprio come una passeggiata, è vantaggiosa sia dal punto di vista della salute che da quello economico. Assolutamente sì. Abbiamo studiato questo progetto tenendo conto di due aspetti. Noi dobbiamo trasformare l'attività motoria, che è uno dei grandi stili di vita per vivere meglio, da una indicazione rivolta a tutti, ai giovani e ai vecchi, ma affidata per la pratica al convincimento delle singole coscienze, sostanzialmente, trasformare questo in un pezzo di offerta sanitaria dell'istituzione azienda USL. E quindi abbiamo pensato di prescrivere l'attività motoria come se fosse un trattamento sanitario, in alternativa ad altri trattamenti sanitari, in particolare all'assunzione di farmaci. Ora, questo significa che ci siamo preoccupati di capire se c'erano le condizioni per svolgere un intervento significativo nei confronti di una categoria di persone malate, non di persone sane. Abbiamo individuato i nostri diabetici, sono 7.500, parte dei nostri ipertesi, 2.500, 1.000 anziani fragili. Abbiamo individuato quindi 11.000 utenti ai quali i medici di medicina generale prescriveranno attività motoria. Ovviamente i medici di medicina generale fanno parte di questo progetto, che è strutturato su due livelli. Il primo: i medici di medicina generale prescrivono in maniera personalizzata ai loro pazienti con quelle caratteristiche attività motoria. Lì dove ci sono delle situazioni complicate, polipatologie gravi, c'è un secondo livello di accertamento delle condizioni possibili di attività motoria fatte dai centri di medicina sportiva e da un centro universitario con noi convenzionato. Noi pensiamo, così facendo, si riduce l'assunzione dei farmaci e quindi tutto sommato si vive meglio da parte dell'utente, perché gli effetti collaterali vengono a ridursi o a eliminarsi, e allo stesso tempo gode di grandi benefici il sistema sanitario nazionale, perché c'è un risparmio significativo. Dove questo è stato fatto si è parlato di centinaia di dollari. Noi cercheremo di vedere nel corso di un anno, questo è il periodo di sperimentazione, che cosa riusciremo concretamente a ottenere rispetto alla spesa storica che ogni paziente ha in questo momento documentato. Dottore, io la saluto, perché immagino, non so se lei la sua mezz'oretta al giorno l'ha già fatta. Io la di più, quindi lei si è portato avanti per il momento. Io la ringrazio davvero, in bocca al lupo, e sono certa che otterrete tutti i risultati per cui state lavorando. Grazie dottor Foglietta, buona giornata, buona passeggiata. Grazie tante a voi, e sarà mia cura essere il primo a rispettare queste indicazioni. pronto soccorso. Siamo tornati insieme, facciamo un percorso oggi dalla dialisi al trapianto di rene. Le liste d'attesa sono lunghe, troppo lunghe, ma io credo che tutti noi siamo responsabili della durata di questa attesa. Per questo questa puntata vuole essere anche un'occasione per alimentare, nutrire la cultura della donazione. Lo facciamo oggi in compagnia del professor Giuseppe Remuzzi. Professore, ciascuno di noi deve fare il suo piccolo passo. Certo. Per fare il trapianto servono i donatori. Quando siamo morti, e donatore è chi è morto, non persona in coma, è morto perché ha una morte del tronco cerebrale. Morte del tronco cerebrale vuol dire morte dell'individuo, senza nessuna possibilità di dubbio. Ecco, quei reni lì, quegli organi lì a noi non servono più, andrebbero sottoterra o finirebbero bruciati. Io credo che sia importantissimo che questi organi rimangano a disposizione di quelli che ne hanno bisogno per vivere, e tanti, tanti davvero sono bambini. Il trapianto è vita e vive grazie ad un trapianto l'onorevole Fabio Mussi, già ministro dell'Università. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a voi. Onorevole, dalla sua storia tutti noi possiamo imparare, possiamo convincerci a diventare donatori. Credo che sia questo un passo molto importante. Ma io ero donatore, avevo partecipato attivamente da parlamentare, da capogruppo dei DS alla Camera, alla discussione sulla legge sui trapianti. Sì. E appena approvata la legge mi ero fatto la tessera di donatore. Non immaginavo allora poi di essere invece oggetto di una donazione. È un'esperienza forte, un'esperienza importante, insomma si riguadagna fiducia nel prossimo, ecco. La donazione è un sistema circolare di vita che consente di migliorare la propria salute o di sopravvivere a persone che non avrebbero chance. E una persona morta, come ricordava ora il professore Muzzi, irrimediabilmente morta, compie un gesto, lo compie perché lo ha dichiarato, diciamo, che consente ad altri, alla vita di prolungarsi in altri. È una grande esperienza umana, oltre che medica e scientifica. E io, insomma, ho scoperto quasi per caso lo stato avanzato della mia malattia renale. Lei non aveva avuto nessun segnale di allarme? Dunque, segnali di allarme, sa, io ho avuto degli incarichi politici e parlamentari piuttosto importanti negli ultimi 10-15 anni, una vita che ti travolge, in cui non hai tempo, stai attento neanche ai sintomi, non lasci perdere, sei convinto di essere immortale, non dormi mai, eccetera, ma insomma a un certo punto disturbi gastrici, io pensavo che fosse qualcosa, un apparato digerente, e sono andato a farmi delle analisi dopo aver aspettato lunghissimamente, insomma non stavo bene, ho aspettato lunghissimamente, e sono andato a Regina Margherita a Roma, dove mi hanno fatto analisi approfondite, endoscopiche, cioè, se no non c'è niente di particolare, però ci deve essere un errore di laboratorio, perché qui c'è un'analisi che dice creatinina 4,4. E poi ho ripetuto l'analisi al San Giacomo, invece non era un errore, era la verità, era un dato avanzato di... Allora a quel punto mi sono ricordato del fatto che da bambino ho avuto una malattia renale, probabilmente allora di carattere infettivo. C'era stato un errore persino di diagnosi, per cui mi hanno portato molto avanti, ma dopodiché da quell'episodio infantile, 6-7 anni, non ci ha più pensato. Non avevo più pensato. Certo. I regni hanno fatto il loro dovere per una cinquantina d'anni, sono cresciuti meno del normale, però hanno funzionato. E poi non ce l'hanno fatta più. Non ce l'hanno fatta più. Professor Remuzzi, si è rotto, ecco. Professor Remuzzi, l'onorevole Mussi dice il pezzo si è rotto. È abbastanza frequente una situazione come quella dell'onorevole Mussi. Noi ne avevamo in parte parlato, perché ci sono delle diagnosi che arrivano proprio come un fulmine a ciel sereno. Ma sì, il rene è un organo, al contrario di tutti gli altri, che ha una grande capacità di adattarsi alla perdita di funzione, alla perdita di parte di unità nefroniche, questi piccoli filtri, di cui ne abbiamo 1 milione per ciascun rene. Poi nei libri c'è scritto che ne abbiamo 1 milione, di fatto qualcuno ne ha 400.000 e qualcuno ne ha 1.200.000, sì. Ed è pure possibile che chi nasce con 400.000 unità funzionali è più vulnerabile alla perdita di un certo numero. Ma il rene, finché non arriva al 10%, 20% di residuo funzionale, quindi si può perdere l'80% della funzione nel rene quasi senza avere disturbi. Il rene compensa con l'organismo compensa con la pressione alta, che aumenta poi la perfusione al rene, consente di filtrare lo stesso quello che dobbiamo eliminare, ma uno magari la pressione non la prova. Certo. Allora c'è un po' di pressione alta, c'è un po' di mal di testa, qualcuno prende i farmaci per il mal di testa, così la funzione renale peggiora, perché i farmaci possono fare male se sono presi cronicamente proprio quelli con il mal di testa. E quando arriva una persona da noi, quello difficile è dirgli: guardi, lei ha perso gran parte della funzione del rene al punto che forse presto dovrebbe fare la dialisi. Questo è il momento più difficile, e succede, non succede in tutte le malattie, succede però per certe malattie particolari, soprattutto quelle del glomerulo. Abbiamo Francesco che ci chiama dalla provincia di Bari. Francesco, buongiorno, benvenuto. 824 0024 è il numero per partecipare alla trasmissione. Francesco, buongiorno, può fare la sua domanda? Buongiorno. Sì. Buongiorno, io volevo chiedere, avendo la proteinuria alta da ormai 15 anni, cosa vado incontro? Tenendo anche la creatina sotto controllo, in questo caso era 2,2. Ci sono vari rischi di andare in dialisi? Ho 40 anni. Grazie Francesco. Professor Remuzzi. Avrei bisogno di sapere quanto è la proteinuria e se c'è una diagnosi, se è stata fatta una biopsia renale. In linea di massima, qui è necessario fare una biopsia renale. Sulla base della biopsia renale, sapendo quanto è questa proteinuria, la funzione renale la sappiamo, possiamo avere un'idea se la malattia progredirà o no. In linea di massima, questa è una cosa seria, bisogna essere in contatto con un nefrologo che si occuperà certamente di questo problema. Professor Remuzzi, torniamo ai trapianti. Come stanno andando le donazioni oggi? Non stanno andando bene le donazioni proprio in questo momento in Italia. Noi abbiamo avuto un periodo discreto in cui eravamo in linea di massima nella media europea. Quest'anno le cose non vanno bene, non vanno bene in Italia e non vanno molto bene in Lombardia. La situazione dell'anno 2008 dei donatori è peggiore di quella del 2007 e lo è in particolare in Lombardia. Noi abbiamo sempre detto: in Lombardia siamo nella media europea, ci sono delle regioni, l'Italia è una composizione di regioni, non è un paese per quanto riguarda i trapianti, magari lo è anche per altri aspetti, quello è più esperto il ministro Mussi per rispondere, ma certamente l'eterogeneità dell'Italia è straordinaria nel campo dei trapianti. Noi andiamo da quasi 39 donatori per milione di abitanti, che è di più della Spagna in Toscana, andiamo molto bene in Piemonte e in Liguria, abbiamo sempre detto il sud non va bene, ma adesso non va bene la Lombardia, e noi abbiamo 18 donatori per milione di abitanti quest'anno in Lombardia, che è meno della media europea, molto meno della media europea, ed è meno della maggior parte delle regioni d'Italia. Allora, continueremo a parlarne, rimane con noi l'onorevole Mussi, rimane con noi naturalmente il professor Remuzzi. Arriva un messaggio di cui parleremo dopo, perché ci dà la possibilità di fare delle precisazioni. Ci scrive un'ascoltatrice: spero che il professor Remuzzi mi spieghi meglio perché al Mussi, deve essere lombarda, sono stati impiantati 2 reni, ma non si è sempre detto che basta un rene per vivere, poteva darla mia figlia quello in più dato a Mussi. Sicuramente non mi diranno ambedue una risposta convincente. Trapianto di rene, un intervento salvavita, ma non ci può essere trapianto senza donazione. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Remuzzi, abbiamo anche l'onorevole Fabio Mussi, che ha ricevuto, è stato sottoposto ad un doppio trapianto di rene. Onorevole, alcuni messaggi arrivano, la sostanza è... ma ci facciamo naturalmente anche aiutare dal professor Remuzzi, perché credo che sia questo un'occasione per fare un po' di informazione. Ci sono molte, c'è molta confusione, perché a uno due e invece ad altri nessuno. Onorevole, ci racconti perché la sua storia? Infatti, questo ci programmi. Bene. Ora capisco che ci sia un pregiudizio e un sospetto spesso motivato verso i potenti, i politici, diciamo, i loro privilegi. Tanto io, che ho avuto importanti responsabilità fino a diventare ministro, ho sempre pensato che queste responsabilità si esercitano per un periodo, poi si torna a essere normali cittadini e come tali bisogna comportarsi. A me naturalmente sarà diagnosticata una imminente dialisi e quando... e sono sceso sotto il 20% di funzionalità renali, i medici a Roma mi hanno detto siamo vicini alla dialisi, poi ci è voluto più tempo di quanto previsto, ma insomma arrivati al 10% di funzionalità la cosa era imminente. A quel punto mi sono guardato intorno, non solo per la dialisi che avrei fatto a Roma, ma anche per il futuro trapianto. Gli ho chiesto un incontro con il professor Remuzzi. Intanto ho scelto comunque una struttura pubblica, un ospedale pubblico, quello di Bergamo. Mi sono rivolto al professor Remuzzi per la sua fama di grande scienziato, di uomo di straordinaria competenza, e il professor Remuzzi mi ha presentato questa ipotesi del doppio trapianto. È un programma del quale si può usufruire quando si è passata una certa età. E ti vengono impiantati due reni cosiddetti marginali, di quelli che nel trapianto semplice, nelle liste ordinarie, non vengono usati. E sono quindi, c'è un programma, io credo di essere il 603esimo che ha usufruito del trapianto con organi marginali. Professor Remuzzi. Mi sono messo in lista come qualunque altro cittadino, quando è stato il mio turno sono stato chiamato e mi sono fatto il trapianto. No? Delle liste molto più rapide, professor Remuzzi, stiamo su questo aspetto. Donatori, organi marginali, l'onorevole Mussi ci ha detto è possibile riceverlo a partire da una certa età. Ci aggiunga qualche dettaglio. Sì, c'è una signora che ha fatto un po' di polemica, la lettera non era carina, ma invece ha detto una cosa giusta. Non si è sempre detto che ne basta uno, sì, si è sempre detto. Ma le cose che si dicono poi in medicina cambiano. Noi nel 97 abbiamo incominciato a pensare, sulla base di dati che avevamo ottenuto negli animali, che si potevano utilizzare reni con donatori di più di 60 anni danneggiati da ipertensione o diabete, che prima venivano buttati via perché li si considerava non idonei al trapianto. Sì. Questi organi, purché non abbiano delle lesioni troppo severe, possono essere utilizzati. Anzi, i nostri studi hanno dimostrato che reni non perfetti da donatori anziani garantiscono dei risultati che sono paragonabili a quelli che si ottengono con un rene singolo ideale, ma bisogna trapiantarne due, perché certo, se ne trapianta uno la vita di questi reni è troppo breve. Quali sono i candidati? I candidati devono essere delle persone ultra sessantenni, disponibili a ricevere reni da donatori anziani o molto anziani. Non so se siamo, nel caso della figlia della signora, in queste condizioni, penso di no. Nell'ambito dell'organizzazione a questo programma possono accedere anche a malati che non siano in dialisi, purché ultra sessantenni. I tempi d'attesa per il doppio trapianto sono brevi e la ragione è che i donatori anziani o molto anziani sono sempre di più. I giovani, per fortuna, che muoiono in condizioni di poter dare un rene sono molto meno. E tra l'altro nemmeno tutti gli ammalati ultra sessantenni sono idonei a ricevere un doppio trapianto, molti hanno dei danni, come dicevamo prima, alle arterie che precludono di fatto questa possibilità. gli organi vengono assegnati tenuto conto del gruppo sanguigno. Quando è venuto da noi l'onorevole Mussi, noi avevamo 4 pazienti in lista d'attesa per doppio trapianto e 184 per il trapianto con un rene ideale. Tra l'altro, questa attività che abbiamo cominciato e che poi si è diffusa in tutta Italia, adesso ne sono stati fatti più di 700 di questi trapianti, ha aumentato la disponibilità di organi del 30%. Io ero in questi giorni con il dottor Scalamonia, che dirige il Nord Italian Transplant, la nostra organizzazione per il trapianto del Nord Italia, e mi diceva: per fortuna abbiamo il doppio trapianto. 30% in più vuol dire che noi abbiamo dato alla figlia della signora, offrendo la possibilità a persone che hanno più di 60 anni di avere un doppio trapianto con reni di persone anziane, abbiamo dato alla figlia della signora il 30% di possibilità in più di ricevere un rene ideale. La figlia della signora non può avere il doppio trapianto perché non ha l'età. Perché se avesse 60 anni non ci sarebbe nessun problema, lo faremmo molto volentieri. Dal momento che non lo può avere, e non credo che vogliamo discutere gli aspetti tecnici del perché non si possono dare 2 reni marginali di persone anziane o molto anziane a ragazzi di 20 anni o di 30, dal momento che non lo può avere, l'avere avviato in Italia questo programma sottrae le persone che hanno più di 60 anni alle liste d'attesa che prevedono il trapianto con un donatore ottimale. Quindi di fatto io credo che la signora non dovrebbe essere arrabbiata, ma molto grata a persone che accettano di entrare in questo programma, certo, perché accettano un programma in cui loro ricevono dei reni che non sono reni ideali. Luca ci chiama da Rovigo, 824 0024. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche ai vostri ospiti, salve. Buongiorno. Ci racconti, Luca. Niente, io nel 98 ho fatto un trapianto rene pancreas perché il diabete mi aveva devastato praticamente tutto, reni, occhi, nervi, insomma mi aveva buttato proprio per terra. E quindi mi sono messo in lista, prima di tutto ho fatto la dialisi perché purtroppo quella ho dovuto farla a 17 mesi, di cui metà extracorporea e metà con la dialisi peritoneale associata anche a quella automatizzata di notte. Sì. E il 25 di agosto del 98 ho fatto il trapianto rene pancreas e il giorno dopo praticamente mi sembrava di avere una forza talmente grande da poter trascinare un treno, e quindi da lì è cambiata la mia vita. Sono entrato a far parte di associazioni di volontariato che proprio divulgano il messaggio della donazione, che è l'AIDO, e quindi la mia vita è cambiata, è migliorata tantissimo da quello che facevo prima a quello che faccio ora. Lavoro, sto bene, ho la mia vita. E questo e l'ha questo potuto fare perché una persona ha donato i suoi organi. Sì, ho trovato, purtroppo ho conosciuto anche queste persone per una fatalità del mondo del volontariato, la quale famiglia aveva un figlio di 23 anni che in una morte tragica, un trauma violento, e in quel momento lì gli infermieri, i medici che c'erano in questo ospedale le hanno parlato che si poteva donare, gli hanno spiegato che si poteva dare la possibilità ad altre persone di vivere, e loro hanno detto sì alla donazione e hanno donato praticamente tutto: reni, cuore, pancreas, corne. Luca, hanno dato la vita. Allora, dato che lei ha ricevuto la vita grazie, una seconda vita grazie ad una donazione, vuole mandarci un suo messaggio, che così poi noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e torniamo insieme al professor Mussi e all'onorevole Mussi? Sì, il mio messaggio è questo: che a tutti quelli che sono in attesa, che stanno vivendo questo periodo che non è facile, di non perdere la speranza, perché come un mio carissimo amico mi ha regalato una vigneta dove c'è un corvo che mangia un rospo, praticamente lo ha quasi inghiottito, la frase diceva: non perdere mai la speranza. E quindi c'è sempre la possibilità. Noi viviamo questo momento così tragico con l'attesa di una telefonata, però prima o poi arriva, perché arriva per tutti il momento di dire: ecco, tocca a me e riparto a vivere. Quindi non perdete la speranza. Anche quel signore che diceva: perché 2 reni all'onorevole quando mia figlia ne aspetta uno, ci sono tanti parametri che purtroppo vanno rispettati per una compatibilità perfetta per poter poi continuare a vivere. Quindi ecco, non perdete la speranza, non perdete la speranza. Grazie Luca. Siamo tornati insieme, abbiamo Enrico da Modena. Buongiorno Enrico. Buongiorno, io le chiedo una cortesia, proprio una cortesia. Io ho 62 anni, sono di peso 65 kg vestito. Ho fatto tutte le analisi, io ho un rene, loro di tutte queste analisi che ho fatto, hanno riscontrato che si è abbassato il rene dalla parte destra. E loro mi dicono cosa si può fare. Il rene sta su, mi hanno detto, il rene sta su attaccato a del grasso. Sì. Lei è magro, allora, come si può fare? Anche un'operazione non risolverebbe il problema. Volevo sapere dal professore se gentilmente mi può consigliare qualcosa. Professore, gentilmente può rispondere ad Enrico? Sì, questo non è un problema. No. Capita, ci sono delle persone in cui il rene si abbassa, sta fuori della sua sede. Più naturale, questo però non comporta nessun problema di malattia, nessun problema di insufficienza renale, nessun problema che un domani potrà condizionare dialisi o trapianto, quindi è veramente una cosa per cui si può stare assolutamente tranquilli. Professore, il rene come il fegato può essere ricevuto anche da vivente, ci spiega cosa certo. può succedere e quali sono i candidati? Perché rispetto ad altri organi può succedere anche questo, e quindi anche questa è una strada. Reni ne abbiamo due, però possiamo vivere con uno, tant'è vero che la maggior parte delle persone che fanno il trapianto vive con un rene. Allora, una mamma può decidere di dare uno dei suoi reni al proprio figlio, un marito può decidere di darlo alla moglie. Di fatto quello che capita più spesso sono che le mogli lo danno al marito. Sì. Però insomma si può fare, si potrebbe avere anche reni da persone strane, purché ci sia una certa compatibilità. Questo però in Italia non si può fare, e c'è tutto il problema di quello che si chiama traffico di organi o turismo di organi, per cui l'Italia è un paese molto attento e molto regolato da questo punto di vista, ma dal momento che ci sono tante più persone in dialisi rispetto a quelli che hanno bisogno di un rene, purtroppo nei paesi poveri chi è povero qualche volta tende a voler vendere un rene pur di avere un beneficio economico. È una cosa che non andrebbe incoraggiata, ci sono delle leggi che impediscono di farlo, si fa quasi in tutti i paesi a dispetto delle leggi, è una pratica che non andrebbe incoraggiata perché c'è sempre uno sfruttamento della povertà da parte di chi è ricco. Però nel problema del dare un organo per uno che per esempio ha una situazione drammatica, non ha la possibilità di dar da mangiare ai figli, allora vende un organo, succede in India, succede in Pakistan, succede in tantissimi paesi poveri. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi. Onorevole Mussi, lei sta, grazie a questo doppio trapianto, una nuova vita. Sta bene, che messaggio vuole dare alle persone che stanno aspettando un rene? Il professor Remuzzi ha chiarito questa doppia cosa del donatore marginale invece della donazione, quella, passate il termine, tradizionale. Un messaggio di chiusura, onorevole? Ma il primo è che insomma, la bellezza della vita è nello stare in relazione con gli altri, e la donazione è una delle forme più alte della relazione con gli altri, è proprio una prova di fiducia nel prossimo, di solidarietà, e quindi di crederci da malati che aspettano un organo, ma anche da sani che possono donarlo quando quell'organo non serve più, perché la vita è finita. E come ricordava il professor Remuzzi, insomma, io penso che una legge giusta sarebbe quella del silenzio assenso, senza bisogno dell'autorizzazione esplicita, perché gli organi che muore sono destinati inevitabilmente alla distruzione, invece sono altre vite che possono continuare. Però il fatto che ci siano donatori, insomma, un elemento, come ricordava il nostro ascoltatore, di Luca, speranza. Sì. Anch'io sono preoccupato, come il professor Remuzzi, del fatto che la curva delle donazioni tende a scendere invece che a salire. Forse anche questo, insomma, è la testimonianza di una società spaventata in cui gli individui si chiudono a rapporto con gli altri, e invece bisogna combattere anche nei momenti più difficili come quello che stiamo vivendo, una battaglia perché perché si vive in relazione con gli altri, ecco. E io insomma non sono passato attraverso la dialisi, però non stavo bene con il trapianto, sono tornato a stare bene. Lei è tornato a stare una buona bene vita, diciamo. Onorevole, io la ringrazio, ringrazio ancora il professor Remuzzi, torneremo ad affrontare questo tema, sull'importanza della donazione ci torneremo, intanto speriamo di aver aggiunto un tassello per fare un pochino di chiarezza in più, risaluto i miei ospiti, buona giornata e io vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.